Il vero problema in BCE a questo punto è poiché questi rappresentanti dei governi o delle banche centrali nella BCE sono rappresentanti che non è elettivi, ma vengono nominati, si presuppone che ci sia un grave scontro che non è personale, perché non è che il signor né Weber né adesso il né Jürgen Stark. Stark credo che l'abbiano fatto per ripicca personale, quindi è evidente che dietro significa che in Germania sta cominciando ad esplodere la questione dell'Europa. In che senso? Nel senso che la Germania, e penso che ci sia una grande fetta della finanza tedesca dietro Stark, hanno deciso che è ora di chiedere un prezzo all'Europa. Il prezzo all'Europa è quello di rinunciare a parte della propria sovranità. Se vogliamo continuare ad usufruire dei denari dei tedeschi, dovremo rinunciare a una parte della nostra sovranità. Questo è lo scenario peggiore che si potesse verificare, perché è quello scenario in cui non è un processo politico quello che porta all'unificazione, al coordinamento delle politiche di bilancio, delle politiche fiscali europee, ma è un processo imposto dai mercati. In questo senso, non solo dai mercati che stanno già dicendo la loro oggi su quello che pensano, ma anche dalla grande finanza tedesca, dalla grande Germania, da chi in questo momento è chiamato a versare i maggiori contributi per salvare l'Unione L'euro. Europea e l'euro. Ecco, questo è il punto. Siamo avviati su un percorso in cui o si sfascia l'euro o si rinuncia alla propria sovranità, ovvero ci faremo dettare e imporre delle scelte dall'Europa, rigidissime, che potrebbero andare ben oltre il peso e l'impatto di questa manovra che abbiamo visto. Questo è il vero punto.